in primo piano. I giornali di quest'oggi sono praticamente dedicati a quattro argomenti principali. Il primo, Berlusconi spiazzato dai suoi alleati, nel senso che alle contestazioni di Fini si sono aggiunte ieri anche, si è aggiunto ieri anche il sostegno di Bossi al presidente della Repubblica Napolitano. Poi, come secondo tema, continua la schermaglia sul diritto alla vita e Rutelli in particolare si spiega su Repubblica. Il terzo tema è il giorno dopo le elezioni israeliane, si affaccia in Israele il rischio della ingovernabilità. E infine, sempre più preoccupante, lo scenario economico internazionale, dove si accendono dovunque nel mondo nuovi focolai di crisi. Partiamo quindi dal tema della solitudine di Silvio, come titola Libero questa mattina. Dopo la rottura con Fini, ora anche il fedele Bossi sconfessa Berlusconi, si schiera con il capo dello Stato in difesa della Costituzione. Ecco la vera storia del nuovo strappo. Il commento è di Gianluigi Paragone, che dice: l'aver messo alla porta Casini era per Berlusconi la garanzia di un percorso in discesa. Invece, a pochi mesi di distanza, si ritrova a dover fare i conti con le tattiche degli alleati, i quali si sono ritrovati filo napolitano proprio quando i rapporti tra Palazzo Chigi e il Quirinale non sono dei migliori. Paragone su Libero dice: il primo a smarcarsi dall'azione del Cavaliere era stato il presidente della Camera Gianfranco Fini, che ora ha annunciato di voler impugnare la bandiera del patriottismo costituzionale, virgolette, va bene il presidenzialismo ma dico no all'eccesso di potere che è nelle mani di una sola persona, che in questo caso sarebbe secondo Fini Berlusconi. Sempre il motivo, dice, non uno ma due, quindi già perché poco più tardi pure Bossi ha intonato un'ode a Napolitano, sintesi bossiana: il colle non si tocca, il colle è garante, eppure la Costituzione va bene così una volta fatta la convergenza federalista. Nasce quindi, si domanda il Libero, un asse Umberto Gianfranco? Non credo proprio. Fini, e questo per due motivi. Primo, perché Fini sogna di affermarsi sempre più come un uomo delle istituzioni, o capo del governo, o capo dello Stato, un Sarkozy italiano, per intendersi. Il secondo motivo per cui l'asse Bossi-Fini non potrà diventare una realtà è che Bossi non ha queste aspirazioni di Fini. Al Senatur basta coronare il sogno di una vita, cioè arrivare al federalismo. Le ha tentate tutte, quasi sempre in solitaria, e sempre gli è andata storta. Stavolta ha deciso di collaborare con il centrosinistra e con il capo dello Stato. Sulla riconciliazione avvenuta sempre ieri, almeno apparente, fra Fini e Berlusconi, sulla Stampa c'è un commento, come al solito graffiante, di Iena, ex direttore Barenghi, ex direttore del Manifesto, che dice: Berlusconi, io sono il più moderato di tutti. Berlusconi, con Napolitano nessun contrasto. Berlusconi, con Fini va tutto benissimo. Berlusconi, ho appena telefonato a Eluana. Sullo stesso tema interviene sul quotidiano nazionale Franco Cangini, il quale sottolinea che Walter Veltroni ha approfittato dell'occasione per mobilitare quest'oggi il popolo della sinistra in difesa della Costituzione repubblicana e del presidente Napolitano, minacciati dal governo e dalla maggioranza parlamentare, con il risultato però di identificare con la minoranza elettorale la Costituzione e lo stesso presidente, un capolavoro di autolesionismo. Cangini prosegue dicendo: è stato notato che la mossa di Veltroni scalfarizza Napolitano, nel senso che ne piccona l'immagine di presidente di tutti gli italiani e lo schiaccia su una delle parti politiche, con la differenza che a suo tempo Scalfaro poteva permettersi di entrare a gamba tesa nella zuffa per promuovere il ribaltone che abbatté il primo governo Berlusconi grazie al marasma politico che assicurava alle sue azioni la copertura di una maggioranza parlamentare, mentre Napolitano deve convivere con una maggioranza che non è più quella che lo portò al Quirinale. Se i rapporti giuridici, prosegue il quotidiano nazionale, sono importanti, i rapporti di forza, come avvertiva il vecchio Nenni, sono decisivi. Adesso la demagogia di Veltroni mette il Quirinale nelle condizioni di smarcarsi dall'abbraccio soffocante della minoranza e restaurare quel rapporto corretto con la maggioranza che c'era prima della firma negata al decreto Salva Eluana. Sul Giornale c'è un'intervista a Giuseppe Ciarrapico. Il titolo è: se Tattarella tornasse dal cielo prenderebbe Fini per il bavero. Il senatore del PDL afferma su Eluana: Fini ha fatto peggio dell'opposizione. Fu io a presentarlo ad Almirante, adesso mi sento in colpa. Sempre Ciarrapico afferma che Fini non capisce che senza il predellino sarebbe al 3%, e dice lui a capo, cioè Fini a capo del PDL, se va a un comizio i nostri lo fischiano, come del resto è successo recentemente a Reggio Emilia. Sempre su questi temi interviene anche il direttore di Italia Oggi, Franco Bechis, il quale afferma: sono andato ieri a rispulciare gli atti della Costituzione sui decreti legge, che poi è il vero tema del contrasto di queste settimane fra Palazzo Chigi e il Quirinale. Non c'è dubbio sul fatto che i padri della Costituzione volessero limitare l'utilizzo di questo strumento a casi eccezionali. Tanto è che in un primo tempo si era deciso di non inserire del tutto la possibilità nella Costituzione. Lo si è fatto solo alla fine, conservando il carattere di eccezionalità e chiarendo anche come il Presidente della Repubblica non potesse avere voce sul loro contenuto, essendo la sua firma priva di responsabilità. Ma è un fatto che su questo testo, prosegue Bechis su Italia Oggi, diventato articolo 77 della Costituzione, si sia prestato ad interpretazioni del tutto difformi. Basta leggere gli interventi dei costituzionalisti sulla stampa dopo il decreto legge sul caso Englaro. Metà a sostenere che il decreto era legittimo e non legittima la bocciatura preventiva da parte del Presidente della Repubblica, e metà ad interpretare la stessa norma esattamente all'incontrario. Su Repubblica c'è un'ampia intervista a Rutelli. Il titolo dice: no alla bioetica di partito, sto nel PD ma da uomo libero. Rutelli: sono sbagliate certe reazioni in stile vecchio PC. Rutelli afferma che ho votato a favore della mozione del PD su una quindicina di punti. Il punto importante che non condividevo, quello cioè che non distingue le cure, cioè l'accanimento terapeutico, dalla alimentazione e idratazione, era invece condivisibile in quella del centrodestra, che quindi ho votato. Rutelli continua dicendo: non abbiamo fatto questo partito, cioè il PD, per decidere a maggioranza sulle questioni bioetiche. Peggio, per definire come trascurabili o sorprendenti o strappi le posizioni diverse. Se stabiliamo che c'è piena dignità per chi, attraverso un suo difficile percorso, abbia formato un convincimento diverso, ma questa premessa non è poi mantenuta, è grave. Penso che alcuni momenti alti nella Margherita li abbiamo avuti proprio quando ci siamo divisi con onestà e rispetto reciproco sulle questioni bioetiche. Altrettanto alta, conclude Rutelli, deve essere la capacità del PD di ricercare una sintesi e comunque di valorizzare diversità che corrispondono a opinioni profonde nella società italiana. Il Giornale pubblica in prima pagina, accanto al titolo d'apertura, finalmente la sinistra ha un leader nuovo, eccolo, e c'è vicino a questo titolo una immagine gigantesca di Scalfaro, ma chi quest'oggi parteciperà sarà l'esponente di spicco della manifestazione a favore della Costituzione indetto dal PD. Ma sempre sul Giornale in prima pagina c'è un titolo che dice: lettera di Obama a Walter, punto interrogativo, una bufala, cioè una presa in giro. Il leader del PD si vantava della corrispondenza con il presidente USA, ma quella missiva è stata inviata pure in Turkmenistan. Il leader del PD Veltroni si era vantato della corrispondenza personale con il presidente americano. In realtà Obama quella missiva, che era una missiva fotocopia nella quale si auspica 4 anni di amicizia e collaborazione, l'ha spedita in fotocopia a molti altri: Serbia, Polonia, Grenada e persino Turkmenistan. Sul Messaggero il titolo dice: tra Veltroni ed Epifani, cioè il leader, tra il leader del PD e il leader della CGIL, ora è tregua e nel PD tutti inseguono il sindacato, con Bersani in campo, competizione interna verso il mondo del lavoro. Il segretario della CGIL critica: i Democrat ci sostengano chiaramente. La replica del PD: era meglio l'unità sindacale. Noi siamo vicini a tutti. A sera il chiarimento. Sul Sole 24 Ore il titolo di apertura è: bot, rendimenti al minimo storico, la domanda supera e forte calo dei tassi, 1,2% lordo ai trimestrali. Sempre sul Sole 24 Ore in prima pagina: in caduta a gennaio i consumi elettrici, meno 8,5%, discesa record al nord, anche l'acquisto dei carburanti è precipitato del 7,9%. Per i consumi di energia, dice il Sole 24 Ore, è il crollo più forte da decenni. Il taglio della richiesta di corrente elettrica ha sfiorato addirittura il 10% in Nord Italia. Sempre il Sole 24 Ore in prima pagina ricorda la presa di posizione della Federdistribuzione, l'organizzazione che riunisce le grandi catene commerciali. Dice: lo shopping della domenica aiuta il prodotto interno lordo, che crescerebbe dello 0,5%. I negozi, dice il Sole, aperti la domenica fanno bene allo shopping e le analisi effettuate dalla Federdistribuzione, l'associazione che riunisce le grandi catene commerciali, sottolineano che se gli italiani potessero effettuare sempre la spesa la domenica o nei giorni festivi ci sarebbe un beneficio notevole. Gli acquisti infatti aumenterebbero del 2% almeno e soprattutto il prodotto interno lordo potrebbe beneficiare di un effetto positivo che è valutabile almeno in mezzo punto percentuale. Su MF, il quotidiano dei mercati finanziari, l'apertura è il mea culpa di Wall Street: i grandi banchieri USA davanti ai parlamentari ammettono gli errori, useremo i fondi dello Stato per sostenere famiglie e imprese, il boss dei siti guadagnerà solo $1 all'anno finché il gruppo non tornerà inutile. Ma le notizie delle malversazioni finanziarie proseguono. Sempre MF dice che il procuratore generale di New York Cuomo, in una lettera che è stata pubblicata adesso, ha scoperto che Merrill Lynch ha pagato 3,6 miliardi di bonus in segreto. 4 top manager con bonus per complessivi 121 milioni di dollari pagati poco prima della chiusura della banca. E a questa notizia allucinante se ne aggiunge un'altra, quella di Lady Madoff, moglie del finanziere statunitense Bernard Madoff: ha ritirato oltre 15,5 milioni di dollari dalla società di brokeraggio di cui lo stesso Madoff è comproprietario nelle settimane precedenti all'arresto del marito. Sui temi economici interviene anche il quotidiano della capitale, Il Messaggero. Il titolo dice: debiti USA, banche italiane immuni, ma ora debbono aiutare le imprese. E l'articolo parte da un dato di cronaca terrificante che dice: in Islanda nel mese di dicembre 2008 sono state immatricolate solo 46 nuove automobili. Un minimo storico per un paese di circa 600.000 abitanti che in un anno normale come il 2007 aveva immatricolato quasi 160.000 nuove vetture. È il segno evidente di un disastro economico senza precedenti, di una catastrofe finanziaria che ha portato l'Islanda sull'orlo della bancarotta totale. Ma, prosegue Il Messaggero, anche Barack Obama ha detto chiaramente che senza l'approvazione da parte del Congresso del suo piano di sostegno all'economia l'America rischia molto. Virgolettato di Obama: il deficit di posti di lavoro, redditi e fiducia potrebbe trasformare la crisi in una vera catastrofe. Il Riformista, scusate un secondo, apre la prima pagina con questo titolo: strozzati dalle banche. Un'imprenditrice racconta il credit crunch all'italiana. Ci scrive la presidente dell'editrice Mursia: la stretta creditizia c'è, i tassi di interesse sfiorano il 14%, il sistema di autofinanziamento sta collassando, decine di aziende in crisi. Sul Sole 24 Ore riporta la notizia che l'import cinese è in picchiata, crollo del 43% in gennaio. A gennaio le esportazioni del Dragone sono aumentate a 90 miliardi di dollari, con una flessione del 17,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Una performance che va ben oltre le previsioni più pessimistiche degli analisti. Il fatto, dice il Sole 24 Ore, è che il Made in China non tira più come un tempo. Tessile, abbigliamento, mobili, giocattoli, elettronica, la gelata dei consumi mondiali ha colpito senza eccezioni tutti i settori dell'industria manifatturiera cinese. Il risultato è che le aziende chiudono i battenti e milioni di persone perdono il posto di lavoro. Finisce così la rassegna stampa di questa mattina. L'appuntamento è per domani alle 7:30.